delle cose, è entrato e subito ha sciolto il cane. E cos'era? Un pitbull giovane, più o meno l'età di Filippo, forse anche più piccolo, quattro. Cazzo che era in corsa, ragazzo, e si avventa Filippo. Filippo, come l'ha visto arrivare, che era di culo, si è girato, una cosa di un secondo, si è girato e l'ha preso di petto, l'ha preso con la testa, lui è andato a bocca aperta a morsicarlo al volo, no? A chi di bitti voi sono usciti, apre la bocca al volo di Libiliano Lugano. Come cazzo Filippo si è girato, si è sbattuto al petto di Filippo, bum, ed è rodurato. E come è rodurato, Filippo gli è andato sopra, gli ha messo una zampa sopra il collo, cazzo la stava a Gimaggi Romagna. E padrone cazzo a voce, cazzo, attaccali tu i cani, e tu, attaccalo tu. E come gliene mette una mano in bocca al mio? E l'ho appena tagliato sotto il collo. Capito? La prossima volta stai attento, perché non è che tu entri in un posto così, io quando entro lo tengo al guinzaglio, guardo se c'è qualcuno, se non c'è nessuno lo mollo. E sei entrato dal cancello che ti ho visto subito col cane sciolto, e dice scusa non ti ho visto, tu scusa non ti ho visto, i cani si ammazzano in uscita, perché sono due maschi, capito? Quindi assolutamente no, forse perché era giovane, non era un cane, però ha pigliato due più subito a Filippo. Certo, adesso Filippo c'ha 10 anni, un pitbull di 5-6 anni catturisce bideggia. E i pitbull sono mari, ti prendono la cuscia, ti morsicano la cuscia, ti fanno cadere, li fanno cadere e poi li prendono al collo. Sono bastardi, come ha fatto a Teso quando c'aveva la museruola quel giorno. L'ha preso la cuscia, Teso è andato a girarsi, l'ha preso per il collo e l'ha bloccato tra il collo e l'orecchio. Tu pensa che bocca c'ha noi. Per fortuna lo sciarpiccio ha la pelle molto larga, c'era molto scesa, non è attaccata alla carne, e il morso gliel'ha dato lì, ho dovuto mettere i punti lo stesso, però intanto l'ha preso lì. Se non ci fosse stata quella ragazza con me che ha un pitbull, a sua volta ha saputo staccarglielo, anche se non era il suo, gliel'ha staccato. L'avrebbe ammazzato, capito? Perché aveva la museruola, non ci poteva manco difendere. Vabbè, cani bisogna stare molto attenti. Io qua sono venato, anche quello era il motivo del mio sogno, che stavo già curando da tantissimi anni, però il cane qua è libero, è a casa sua, non entra nessuno, poi anche poco fa l'ho mollato, è sceso giù da solo, è tornato a salire, cioè non ha fatto dubbio, capito? Quando mi devo stare attento, ma io cazzo una volta che, cioè, io so quali sono i cani del mio palazzo, quindi quando scendo un ascensore, io non ce l'ho a guinzaglio il cane, scendevo un ascensore senza guinzaglio, quando prima uscivo al portone mettevo il guinzaglio, salve l'ascensore Gianni, cazzo è vera, un ragazzo che veniva a trovare questa ragazza, mica c'era il pastore tedesco, meno male ce l'aveva a guinzaglio, meno male, Sant'Antonio mio. Infatti è un rischio, non invece penso si è preso brutto vizio, se ci sono persone che non conosci li salta addosso, se vuole accarezzare li salta addosso, quindi sto uscendo sempre con la museruola. No, Filippo, questo non ce l'aveva, però sono sempre, bisogna andare sempre lì a cani, buoni o cattivi. E tu la iatta vai, Ivra? No, mi sono che io, mi abbasso io. Io se no io, ma tanto mi alloreggio io. Giovanni ce li ha i gatti in campagna sicuramente. C'è anche Giovanni. C'è Giovanni Stacco e anche Franco da... Cosa? Non so se hanno chiuso, però c'era. Solo il caldo, ero fuori con la giacca del pigiamino, ma c'è un caldo, si sta benissimo. Domani ci sarà un bel caldo. Ci ha fatto un'imbarriata stamani, non voglia vista, voglia che giudeva. Allora già io nel che era? Primo pomeriggio ho dovuto staccare, c'ho salvavita anche qua, no? Questo impianto della carbonati, staccare il salvavita, mettere a zero, ho messo le antenne a zero e ho tolto addirittura la corrente anche al salvavita, ma fulmini puri, va tutto andato a 10 minuti, 15 minuti, cazzo non si vedeva la strada, poi è uscito il sole. Mamma lo chiamava, lo so, in Granabizzini quando era così, e poi il video di Toro Ritro. Ho baciato l'acqua che ha fatto. L'ho visto arrivare dalla parte di oggi, aria nera, gli ho detto, me la mi, a rivendi, infatti gli è arrivata. E la socio ha piovuto a fra. La socio stasera dice che ha dato un bel colpo d'acqua. No, io ero giù a tutto bella, sono salito poco fa. C'era un caldo che non finiva più. Sì, anche l'Alghero, l'altro fu mia sorella, stava bene. Qua c'era questa perturbazione di passaggio che Sciaro del cacchio è arrivata, è proprio ha picchiato forte. Vabbè. Va bene così, adesso aspettiamo il tempo bello, dai. Ha rovinato tutti i carciofi della zona di Oristano, quella zona lì, ha fatto una gradinata allucinante. Poi Amanda, se l'ho visto. Ho visto la televisione, ma lì siamo grandi, lì c'è ghiaia. Quella ti rovina anche la macchina, se ti cade sopra, ti invasi i cosi, i buzzi, ti fa. Ho visto quell'agriturismo che c'era una cerimonia, che erano nel gazebo esterno, in lamiera, ha buccato la lamiera. Non so, sono cose anomale, ma in certi posti, vabbè, me lo raccontava già un amico mio che lavorava in Germania, ha detto che una volta tornando in Italia qua ha fatto questa grandinata, si sono nascosti tutti sotto la galleria per non rovinarsi le macchine, dice che ha fatto le macchine tutte a botte, ma dice che scendeva la grandine come se fossero marraggi, proprio pezzi grossi, allucinanti. Guarda, io una volta, non so se vi ricordate, ero ancora là nella zona di Valle Doria, ha fatto una grandinata allucinante. Io stavo transitando tra Santa Maria Colinas e Valle Doria, mi sono parcheggiato per non rimanere in macchina perché avevo paura che mi rompesse il parabrezza, mi sono andato in Ugascione, avevo una paura tremenda perché di quanto era forte, ma forte e bella grossa, ho detto qua sfascia il parabrezza mi ammazza, e allora me ne sono sceso di fretta e me ne sono andato dentro il cassone che era chiuso, no? A Giuseppe ha detto quando bassa corra per chi, capito? Ma c'è quattro frecce in una piazzuola, luci accese, e mi sono entrato dentro la Rugascione in ferro, ho detto qua può ammaccare ma non succede niente perché avevo paura che rompesse il parabrezza, figura di due. Vai fra. Lì devi sperare però che non ne cala uno almeno da 200 kg. No, tanto la macchina non era mia, quindi avevo il fiorino aziendale, se si ammacca a me, manco balle me la futti. Foto di fotografia prima le batti, non me la futti nulla. Invece non è successo niente. Qualche puntina nel cofano c'era, però avevo paura, io seduto davanti aspettando che passasse, avevo paura di cantera grossa che sfasciasse il parabrezza e mi prendeva a faccia, capito? Che esplodesse il parabrezza. E allora me ne sono andato al cassone. Sono pericolose quelle cose lì, infatti molta gente un periodo ha avuto le macchine tutte ammaccate proprio le capote, ammaccate dalla grandine grossa. Caspita, speriamo che non ne pare anche di marraggi maduri, di chi si dà un chilo. No, è esagerato, già figuri, valanghe sono queste. Oggi non si sa mai, il clima sta girando non in bene, in male. Io mi ricordo solo quella volta che c'è stata quella tromba d'aria, stavo andando verso Portotone, si mi ha trovato solo sui vidriacci e mi è caduto l'albero proprio davanti alla macchina, proprio l'albero in mezzo alla strada, e io l'ho scartato, però mi ha buttato fuori tutte e due le pattane delle laggiù la sabbia che la prendeva, vento, qua di tutti di più. Sono arrivato lì dove si sale per le curve di coso di Monterraso lì, e c'era tutta l'acqua che usciva dalle campagne e saliva sino al cofano della macchina, più di guasto. Sì, vabbè, trombe d'aria adesso, un strano, vedi, stanno cominciando ad arrivare anche quelle lì, stanno cominciando ad arrivare, vedi, il clima si sta girando, stai girando, dopo stai girando, boh. Prima non succedevano queste cose, io mi ricordo, non mi ricordo di sentire trombe d'aria e queste cose qua, quando ero ragazzo, invece si intende di tutto, si intende. Ah, ti cazzo. No, adesso il clima è completamente cambiato, fra. Ma tu hai visto il casino che fa ogni volta che piove in continente, da tutte le parti? Qua fortunatamente, insomma, poco se ne sente, perlomeno nel nord di Sardegna, ma nel sud di Sardegna ci sono alluvioni, queste grandinate strane, queste cambi di temperatura, di clima proprio in generale, capito? È un casino, vabbè. Sarà, io già avete voti. La zona di Olbia, quando piove diventa un casino, ci allaga ogni voce così. Ciao raga, buonasera a tutti, buon proseguimento, cambio. Ti abbiamo chiamato, Giovanni. Io non ho aggiunto il saluto, ero in ordine, comunque buon proseguimento, buona serata a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao Giovanni, sì, ti ho anche salutato, evidentemente ti sei distratto. Comunque ciao, buonasera e ben ascoltato. Avanti Franco. Ehi, capo. Ciao Giovanni. No, io credevo se n'era andato, la verità. L'abbiamo chiamato, non ha risposto, abbiamo pensato non ci fosse più, vabbè. Ciao Giovanni, ci sentiamo. Giovanni Stanco, così è nominativo. Sei ufficio. Non sei ufficio, come vediamo finissimo. Io l'ho anche salutato, però pensavo appunto ormai a Franco che c'era lontano con la radio. Va bene, va bene, va bene. Adesso fra un po' mi andiamo a pappare, come cala il sole. Già ora, già ora, hai ragione. Aspetta, sono già le 8. Le 8 sono, e vabbè, ma adesso alle 8 pare di 7, dai, non è che sia così grave. Io sto mangiando sempre più tardi, perché mangiare a quest'ora non mi piace. Non è molto entrare più tardi, verso le 8 e mezza e dopo mangio. Non mi viene voglia quando c'è tutta questa luce. E chiudo le finestre, così la luce non la vedi e mangi. Sì, vabbè, dai. Ma le giornate stanno allungando adesso, quindi già piano piano. Comunque, per la cronaca, un altro uovo. Ma uovo di Pasqua? Non è di Pasqua, no. Quello è un uovo che esce la sorpresa. No, sono raggriato. L'ho fatto in tempo a uscire dal nido e cominciare a mangiare da soli, piano piano. Adesso è vero, c'è un altro uovo. Non ho fatto in tempo manco a togliere il nido, perché non volevo togliere per non farla, per non stressarla troppo, capito? E vabbè, pazienza, non ce l'ho fatta. E ha fatto uscendo gli uccelli e facendo l'uovo subito. Oh, scusate un attimo, a proposito di mangiare mi stanno chiamando. Ci sentiamo tra le prossime, dai, buona cena, buon tutto quando la farete e ci ascoltiamo le prossime. Ciao Gianni, ciao Claudio. Ehi, allora riprendo io, ciao Franco, ci sentiamo, avanti Claudio. Ciao Franco, ci sentiamo, dai. Buona cena, buon tutto alle prossime, ciao ciao. So che fa per un visto con la zioda. Cosa ci vendi? Che so che cosa fa per un visto con la zioda. Oh, ma perché è molto grande? No, sto scherzando, no, sono piccolini come quelli dei canarini, sono. Solo che rimangono bianche, bianche, bianche, invece quelle dei canarini rimangono gialline e tutti a puntini marroncini, capito? Queste rimangono proprio bianche, bianche, bianche. Sì, l'ho già visto, già sono qui da loro. Gappa. Quanto ne hai adesso? La sabidica, forse conta, allora ne ho. I genitori sono 2 più 4 sono 6. Più 6, 7, 8, 9 ne ho. Ma tutti i pappagalli, quelli grandi? Allora, grandi ne ho 3. Ne ho 2 genitori più un altro. E poi c'ho le calopsite, quelle che hanno la cresta. Quelle lì ne ho 5. Sono belli. Sono belli, ammazza il tempo, io non ci riuscirei. Non ci riuscirei per il tempo, per la voglia, per tutto quello che vabbè. Claro, devi dedicare un'oretta la mattina per pulire la gabbia, mentre pulisco la gabbia li faccio uscire, loro poi se ne rientrano da soli, mi vanno sulle spalle, giocano un po', fanno, qualche beccata me la prendo ogni tanto. La tarata lì mi ha beccato il cappezzo, l'ero in pigiama, mi ha fatto vedere le stelle, avevo quei pigiami dei giri a maniche corte. Spendi un visto. Però intanto gli appizzi che c'è a Boccuccio, tipo di pappagallo. Quello lì c'è il becco grosso. Mentre invece le calopsite, quando ti becca non ti fa nessun litti, quando ti fa di nulla. Se no ti minacciano più che altro, non ti beccano, ti minacciano quando per dire c'hanno i figli, che tu li apri da sopra la cova per vedere a che punto sono, ti fanno non ti fanno nulla. Certo, sono belli. Vabbè, tu già c'hai la passione di queste cose, già va bene. Mi piacciono, mi sono piaciuti sempre tutti gli animali, da solo il pappagallo. Allora io ho avuto gli scoiattoli, ho avuto due scoiattoli che praticamente ho anche addestrato, venivano sopra la mano, tutto qua. Poi ho avuto i criceti, le cavi peruviane per due volte, poi ho avuto l'allevamento di canarini, proprio un allevamento di 40-30-40 uccelli. Poi, vabbè, ho già avuto di animali allucinanti. Poi l'acquario non se ne parla, ho avuto tutti i tipi di pesce, ho avuto anche piranha. Addirittura, nell'acquario che ci avevi? Io ho avuto i piranha, poi sono cresciuti troppo. Non so se ti ricordi, c'era quel negozio di animali a fianco a Sportland, c'era un negozio di animali prima, adesso non c'è più. L'ho dati a loro perché avevano gli acquari enormi loro, e ho detto se li volete ve li do perché sono cresciuti troppo. Poi mi hanno dato altri pesci d'acquario in cambio e abbiamo fatto lo scambio. Dice sì sì, c'era un appassionato che li stava cercando, li vedi dia. E allora quelli lì uscivano, li mettevi per dire la carne e saltavano dall'acqua, ci mette la prendeva. Andiamo. E avevo solo quei due, diciamo, due erano di quelle argentate, erano bebetti. Sì, allora già va bene, no, ma sono belli, i pappagalli sono belli. A me piaceva tantissimo, ce l'aveva mio fratello un tempo, era un bel belli. Cappagappa. Ma sai che ce li ha avuti un bel allevamento di pappagalli? Come si chiama quello che abita in via Lungomare lì? Ferrarese. Ah, quello di Ferrarese. Quello lì ha avuto un bel allevamento di pappagalli, poi c'era malato, l'avevano operato e li aveva venduti tutti il figlio perché non lo se ne intendeva, non lo so. E li aveva tutti venduti e poi si è preso i canarini, dopo che è guarito ci ha fatto l'allevamento dei canarini, infatti lui c'è canarini adesso, ma prima c'era i pappagalli, li ha venduti tutti quanti all'acqua zoo, quello che c'era stato di Alghero. Ah, sì. Ho capito. Io conosco la bambina Tony Ferraresi. Signor Umberto era il compare di mamma. Umberto Ferraresi è il padrone della trasportore dove lavorava Bartolomeo Chisiete. C'è tempo che era pazzo Tony quando era ragazzo. Minchia, ma pazzo. Poi è diventato un metro geco, c'ha gli occhiali, cazzo spessi. No, prima guidava, faceva gare di moto, go-kart, di tutto così. Davvero? E infatti se tu entri nel garage suo ci sono moto eccetera eccetera, sicuramente qualche cosa la fa anche adesso, perché dove c'ha praticamente l'allevamento di uccelli, entri dentro il garage, c'è un garage prima, poi entri in questa stanza e c'è tutti quanti le gabbie con gli uccelli. E nel garage, proprio nel garage c'aveva moto e così varie. Pizzi, moto, di tutti i più. E c'erano anche le carte, faceva le gare, allora la pizza di Ottava quando era vivo Franco Meloni, ancora Meloni, poverino che è morto e morto, ma pazzo me, pazzo, più pazzo di John Pinna era, ma pazzo me, faceva tutto lo scoglio lungo perché se abita ancora lì abitava vicino al Nautico, faceva tutta quella strada col Kawasaki, quello a tre marmitte, c'era due tempi, cazzo, tutta la roba la vasia. Eppure dalla faccia non si direbbe, sembra una persona abbastanza pacata, tranquilla. E vabbè, i tempi cambiano, E comunque abbiamo comprato diversi esemplari a lui. Cioè, diceva veramente un bel allevamento di canarini spagnoli, no, portoghesi. Quello io so, perché pure mi sono andato via al produttore, se ero già grandetto e ci ho preso in vita, ma praticamente Toni, adesso mi ricordo se Toni, l'altro non mi ricordo, comunque il padre di Toni era il compare di mia madre, quindi lo ricordo perfettamente, era un patto. Era un pazzo, c'è un bel favore che diceva io non voglio un figlio, lo voglio un mancante. E adesso è molto appassionato di ornitologia, aveva portato anche degli esemplari al mercato, al vecchio mercato, avevano fatto la fiera ornitologica, c'erano tutti i tipi di uccelli, c'erano pappagalli, aradi, quelli grandi, tutti i tipi di pappagallo possibili e immaginabili, e poi c'erano delle galline che erano belle, ci avevano le zampe ricoperte di pelo, erano tutte pelose, bellissime, e ci aveva regalato l'uovo, ci aveva regalato queste galline, ma mangiabili, sì, sono uova mangiabili tranquillamente, vi regalo un uovo che le ha fatte qua e ve lo regalo, e ce l'ha regalato, lo stavamo guardando e ho detto caspita che belle esemplari, ma galline così non ne avevo mai visto, tutte pelose, anche la zampa tutta ricoperta di pelo. Sì, sono quelle che fanno le mostre, quelle galline particolari. Se lo conosci, capisci come c'ha gli occhiali grossi, la lente quanto è grossa? Sì, in fondo da pulla, sì. C'era così da ragazzo, capito? Siamo andati via, no, io non preso, ma ti vado a vedere la strada che mi giro. Ma camminavo, ero condannato. Una volta l'ha messo appresso col califone, chissà molto manna. Gigi Curumbino, via Principe di Piemonte, Trampadareda, pigliato, perché lui aveva tagliato dove c'era la strada, che dove c'era il depuesto di Fara prima, capito? Trampadareda, pigliato Gigi Curumbino, che entrava per il depuesto di Fara. Adesso l'avevano operato, capito? Avevano un'operazione, prima io c'avevo un pappagallo di tutti i tipi, bello, tutti gli esemplari. E praticamente mi hanno accompagnato i lasciati, se non si possono dare, io uno dei miei c'ha anche il microchip, gli altri due no, ma uno c'ha il microchip, quello che mi era scappato. No, ma lo puoi mettere a tutti nella zampetta il microchip? No, quello lì è il numero dell'allevatore, l'anno di nascita. Il microchip glielo mettono proprio come i cani, ce l'hanno inserito e tu vai con la pistola, come si fa col cane, e te lo legge, capito? No, nella zappa i miei non ne hanno niente, non hanno nulla, c'hanno solo i documenti, hanno i documenti, i CITES che servono, dove c'è scritto la razza, chi è stato, chi è l'allevatore, il nome di chi l'ha comprato, capito? No, e tu hai lavorato 30 anni a produttore, se io Gavino Urlo abitava in piazza, no? Che lo stesso è il nostro parente, adesso è morto di Gavino Urlo, anche Diolelle è morto, Diolelle Urlo. Gavino in piazza, proprio di fronte alla farmacia di De Murtas, non dove è adesso, la farmacia di De Murtas era più avanti, che tu hai conosciuto benissimo, no? Quel palazzo che c'è di fronte, il Gavino Urlo c'era il merlo indiano, portato proprio da fuori, di nascosto, ma lo sai quanto parlava? Due parolacce diceva in piazza. Ma quello lì, il merlo indiano è proprio specifica bene le parole, io guarda, ce n'era uno, siccome io andavo in macchina sino alla stazione prima, perché prendevo il treno per andare a Porto Torres a lavorare, e mettevo la macchina alla stazione, e cosa è successo? Che un giorno mi hanno rubato tutti e tre per il cristallo, E allora dal giorno li ho messi nuovi, poi dal giorno la metto per via le Sicilia, me ne facevo un pezzettino. E la mia macchina c'aveva anche l'allarme, quindi mettevo l'allarme e un giorno prima di mettere l'allarme sento wii. E detto che cavolo, mi guardavo tutto, eppure non ho premuto il pulsante, lo premo e fa wii come facesse. E ci ha affacciata la signora, questo delinquente che le fa prendere la testa ogni volta, è lui che limita l'allarme, l'ha imparato ogni volta che viene, che lo sente, e adesso lo fa così, capito? Come vede, lei fa l'allarme. Ma guarda, tu ripeteva tutto quello che ci mette, perché stava nel poggiolo nella gabbia. E se lo mio infatti diceva, Raggio, entra dentro. Raggio, entrate, ti porto dentro. E lui ripeteva, ti porto dentro, sempre tutto un altro vicino. Poi diceva, guarda il cane di Rosaria, mia sorella abitava sotto. C'aveva non so se l'ha conosciuto, un collie, c'aveva. No, abitava in piazza. Come aveva? Mi, il cane di Rosario. Collie, c'è tu di casa. E io, vabbè, i miei sono ancora molto giovani, i due che ho hanno un anno, quelli grandi fanno, hanno già imparato qualche parola, dicono aiù, vieni Romeo, aiù, vieni, ciao. Ci vuole tempo e pazienza per insegnare le cose, fischiano la canzone della famiglia Adams, quella che fa... fanno così, proprio uguale. Insomma, i fischi che dava, ma tu immaginati che stava a casa di mamma, praticamente via Cavour a metà, no? All'angolo tra via Libia, che ancora mamma abita lì. Si sentiva il fischio, che ecco si chiamava. Ecco. Si sentiva il fischio. Infatti mamma diceva, ma momenti quasi che avvino a Tinighi su bisogno in casa, si intende lo brucinoga. Era allucinante, ma ti entrava dentro le orecchie, cazzo. Sì, lo so, il Berlendiano fa un fischio allucinante. Mi abbrucio. Però scandisce bene le parole. Anche questo che aveva un amico mio, si chiama Bacchecco, e praticamente lo portava al CISO dove facevamo servizio ambulanza, no? Perché lo prendeva sulla spalla e gli stava fermo, non gli volava né niente. Lo portava al CISO e praticamente gli ha insegnato una cosa. Quando è entrato Giancarlo, la buonanima, una volta l'ha chiamato maresciallo stronzo. Bello, siete voi che l'avete insegnato. Ah, era qui, non insegnava un sacco di cose anche belle, faceva fare i versi tutti gli animali, sapeva fare, sembrava cazzo, faceva il gatto, sembrava un gatto allucinante. E poi quando entravi gli aveva insegnato di salutare, solo che qualcuno, capito, come mio cognato, era sempre, scherzava spesso, no, con mio zio, che diceva ciao Gaviedo e ciao Cato, e lui riprendeva ciao Cato. E poi quelle cose le impararono subito. C'era uno su internet che praticamente era fuori da un negozio di animali, no? Lo lasciava fuori sul trespo. E quando passava questo qui diceva sempre corrotto, questo qui un giorno è entrato e gli ha detto, senti, continua a dirmi corrotto questo pappagallo, gli taglio la testa, e il padrone gli ha detto, e se glielo dice vuol dire che è vero. Ma cazzo, guarda che era troppo, come si è avvinato davvero, era troppo, un particolare me lo ricorderò sempre, gli aveva telefonato a mio cognato perché in piazza gli avevano messo la multa a mio zio, no? E mio cognato era attaccato alla cima, gli aveva detto, ma aveva telefonato, come succede? Ah, tu dici quello di due, hai molto la multa. E mio cognato si è messo la video, la multa andare in voce. Lui, ma per un anno intero, ogni volta che veniva di cammino le ripeteva, la multa. Non mi dava parocchia. E allora verde. E dice, ma non lo dici, ma lo già che glielo dico un sacco di volte, non è vero, non è vero. Lui, la multa, ma cioè sembrava un cristiano parlando, a me mi fa le lacrime, mi fa, ma bella che sei imbecille. Allora Alessio, questo che ci aveva questo amico mio, diceva, come ti chiami? Lui diceva Alessio, ma non ho capito come ti chiami lui, Alessio, si incazzava. Anche lui. Quanto bello che ti chiami Checco, Checco, Checco sono, Checco, Checco sono, cazzo, lo faccio di mano a birno. E quello del mio amico era lì, se l'aveva regalato, se l'aveva regalato questo amico suo che è partito carabiniere, c'aveva quello lì e un'iguana. È un'iguana grande però, lo prendeva a guinzaglio, se l'aveva presi tutti e due lui, a Bitto, gliel'aveva regalati perché detto che doveva partire fuori e non sapeva chi darla. E date Edoardo, questo amico mio, li portava tutti e due al Ciso. L'iguana una volta l'ha portato, ma era grande, non era di quelli piccolini, era di chi di mani, lo pigliava a guinzaglio, l'ha portato al Ciso, che si sono messi a giocare, ha pigliato un grande acuto, l'ha bruciata a questo. Del Ciso che ha fatto il segno con la coda, mi ha frustata. Pericolosi sono quelli, pericolosi, pericolosi. Il cognato, come ti faceva quello di Alghero, ha lavorato all'estero ed era pieno, soprattutto in Arabia lì, capito, la Saifa in quel gruppo Agip, eccetera, lavora in Arabia, lavorato in Tunisia, Turchia, ha girato tutto il mondo, ma era pieno di questi cazzo di sembravano coccodrilli, era pericoloso, infatti non potevi fare la pipì, bisogni nel deserto perché ne uscivano sotto la sabbia che ti prendevano i coglioni. Carlo mi ha mandato una fotografia sua di quando è andato in Australia, praticamente le davano del mangime come si fa con i piccioni e i lori, quelli che c'ho io, quelli tutti colorati, andavano sopra la mano a mangiarlo ed era tutto pieno di lori addosso. No, ma che bisogna stare attenti. No, ma se c'è un ballo indiano era una cosa, l'aveva portato all'Arabia, l'aveva portato via al vino, lavorava con Benassi in Arabia, c'è due fratelli, l'avevamo portato, ce n'era uno di Calvino e uno di Orlelle. Quello di Orlelle era morto subito, aveva imparato poche cose e poi era morto, invece quello di Calvino cazzo è durato una vita durato, e poi vabbè anche quello lì è morto. Va bene, dai, già sono le 8:25, ti saluto, grazie delle occhiate, ci abbiamo fatto due risate e ci accoppiamo domani se coincide. Saluto anche tutti quelli che sono in ascolto. E a tutti, tanto lo so che c'è tutto, non è va. Poi la porterà a teso in giù, mi faccio una passeggiatina con le e poi ce le ritorniamo a casa e bandigamoci. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, già, e anch'io se faccio uscire il cane e poi vado a cenare. Ciao. Attenzione, dieci. Tipo su TikTok che ripara telefoni e fa anche dei corsi gratuiti. Davvero? È bello già così. Ma sicuramente è l'onchio, non ti fate vedere tutto. Sì, si può vedere tutto. No, New York, però piano. Tavolo, sì, si può vedere a terra qua dentro le scatole. Certo che è una cinquantina di. L'unica cosa che non ti dice. Si chiede male da fare. Perlomeno, un tipo. Non ti dice la temperatura. Guarda giù tu che è mezzo carogna. Alto, ma se non si possono dire, non si possono dire, capito? È così. Ok, sì. Allora. Cos'è su YouTube? No, su TikTok. Ma si è compreso un'onda. Ma su TikTok, anche di più. Aspetta, 5C. Aspetta che, ecco qua, Anto. Su TikTok, Anto. Comunque cosa ti stavo dicendo, il computer dice che è risolvibile, dice, se al limite è quello, però io l'ho girato e non l'ha fatto più. E chi si è preso a scatte, non chi si è preso a scatte, chi si è caduto in me mezzo frazigona che mi dà problemi. Vabbè, a tu. È risolvibile se è danneggiato e da cambiare, ma quello lo può fare solo un tecnico che ha la attrezzatura adatta. Ma al limite non manco sto a rompere le balle, se lo so già dove portarlo. Lo porto in via con gli Abruzzi, pigliano e te la mai dentro, mettono a posto. Vabbè, comunque, già si può risolvere, dai, 150 euro. Allora, un PC, 150 euro, vabbè, come si dice, deve essere buono, anche se usato, ma se iniziamo a avere problemi, allora non vale più 150 euro. Giampa, no, comunque già, no, il resto va tutto bene, non c'è problema, il resto è a posto. L'unica cosa che ho riscontrato è solo quella, però ho girato là l'HDMI, non lo fa più, cioè l'ho invertita, se lo dovrebbe fare mi ha detto portamela qua, mi ha detto ne facciamo a migliaia al giorno e te lo sistemo. L'hai preso da un negozio? Futura, lo conosce. Gentaglia sono. Ma se non sbaglio, Futura è quello che c'è in via... Ma come si chiama? Qua è, non è qua in via... Aiuta. Leuca e Abruzzi. Questo c'è qua non è Futura lo stesso, sarà suo, uguale. No, non sono. Tutti qua sono, non forse sono altri. Ma perché ce n'è uno in via Grazia Veneta? No, non via Grazia Veneta, ma come se via Grazia San Francesco, mi sa, farà lì mi sa Futura, boh, vabbè, comunque, c'ha l'hard disk o l'SSD? Sai che io non sento, io quando l'accendo non intengo hard disk girente. Ma tu mica lo senti l'hard disk girare, senti più l'avverto con l'hard disk. Vabbè, quanti anni ha questo compito, lo sai, più o meno? Un paio d'anni, 2-3 anni mi ha detto. 2-3 anni. Comunque qualche graffio di usura ce l'ha, sì? Sì, vabbè, qualche graffiettino. Comunque un i5 di processore, giusto? Eia. A tu, dovresti fare le prove, io l'ho scaricato, nel computer mio, allora, nel computer mio ho scaricato Canto Player, e lo stavo un po' così controllando, è carino, perché non, che ci vuole, me lo fa per scaricare, boh, mi dà una cosa strana, cioè mi apre il coso ma non lo apre proprio il programma, faccio questo qua, me lo apre ed è carino anche, adesso lo apre, aspetta, ci potresti fare un, potresti scaricare anche tu e fare delle prove, capito? Ma l'hai provato tu con l'impianto tuo, il computer? Un bel pompa. Ma hai impostato già l'audio, si esce l'audio? Se esce l'audio, come? Ma praticamente, quando io ci infilo il coso, va tutto in automatico. Quando c'è l'HDMI attaccata, io infilo il jack per l'audio. Cosa succede lui? Che esce? Cioè va tutto in automatico, va. In televisione il jack va sempre là, il coso si vede in televisione e fa a partire il jack del computer. Ma si intende che pompa un bel. Vabbè, non ho detto che proprio lì qualsiasi computer, basta che la pure lo telefonino, pompa lo mattessi, non ciamba. Non è che ci ammassa, c'è le casse buone, c'è il mixer buono, invece non è che c'entra niente. Già la sento la differenza, allora. Io ti dico di no, Anto, fidati. Non si sente la differenza, l'impianto che hai è buono. Quello che entra lo fa uscire il mixer, capito? No, non è tanto la musica del telefono o del computer, è il mixer che comanda e poi le casse, ovviamente fanno solo bene. Scappa, ma sì, è così. Ma comunque io sento i bassi più profondi, dico la verità, tra il coso, tra il telefonino, tra il computer sento i bassi più profondi. Ma comunque, magari un po' ti aiuta, però c'è poca differenza, non c'è molta differenza. Questo dipende dal telefono a telefono, capito? Ci vuole un telefono di gatto, poi ci vuole un telefono nuovo, anche tipo un iPhone, così, però fa pompare comunque. Vabbè, già lo sai che io impianto di cazzo ne ho, sia il primo che il secondo, non ci sono problemi, capito? Cioè tutti e due pompano bene, si sentono alla grande. Lo sai che non sto parlando di impianto, sto parlando di telefoni, cioè un telefono da niente, non è che, non lo so, secondo me funziona comunque. Sto facendo la volta sola, perché poi lui comanda il mixer, poi aiuta le casse, che no, se delle casse buone, già poco la mate, se non ti preoccupa. Cappa, sì sì, non c'è problema per quello. Io ne ho due, ho due possibilità, dipende adesso quando incomincerò a lavorarci, dipende quanto mi bagare, perché se mi bagare poco, però attenzione, non c'è niente da dire, se mi bagare poco tratto il ghisso la seconda, se mi pagano bene uso la prima, il primo impianto, capito? E no, puoi fare una testa la serata, benissimo, te sono da ricuchissare. Ma che cos'è adesso? Ah, in tutto ne ho sei, però quelle che userò saranno due, cioè quattro. Faccio una scelta, mi capito? Vabbè. Di solito ne portano due, cazzo, non quattro. Se vanno bene con due, altro va di fa. Perché sfruttare altre due casse quando non ne hai bisogno? No, non hai capito nulla, no. Allora, io ho la possibilità. Ho due casse, cioè certo se trovo un posto grande, sì. Però vivo nel buon sempre di là. Ho due casse. È un mixer grande, prima, seconda, due casse un po' più piccole, è un mixer più piccolo, capito? Non è che ne porto tutte e quattro, ne porto due. Ho capito, ma secondo me ti conviene a te fare come ti ho detto, procurarti compleanni, così ti cercano, compleanni, battesimi, e perché no, qualche matrimonio magari di quelli come quello che ha fatto da Costantino, da quel ragazzo, per dire, ci prende locale, poi ci chiama qualcuno per fare musica, così usci, secondo me non ti conveniva, poi non lo so, fai tu, io ci sto pensando un po' su, adesso vediamo, là. Però mi scelgo, capito, i posti più, quelli più tranquilli. Da guadagni già, perché se è matrimonio non so, 120 euro, no? Se è matrimonio il prezzo sale. Ebbene, i matrimoni sì, perché lì inizia un'ora, poi non sai mica che la finisci. Perché matrimonio è lungo, capito? Tanto. Non è come un circolo di interno che finisce a mezzanotte, lì c'è la lunga, le 2, le 3 del mattino, vabbè. Minimo ti dai almeno 200 euro, sono quanto che fai. Tu hai fatto 350. Ah, no, non esagerava, ho da 350. Poi dipende da te, tanto, fatti pagare su di voi. Dipende dalle ore, se ti hanno l'orario li prendi totte, se poi non c'è orario, sale il prezzo, capito? Purtroppo c'è chi si trattiene. Lo so lui. Proprio il matrimonio è così, Con la clausola bisogna fare una cosa con la clausola, che se uno dei parenti cosa danneggia la roba, si devono pagare tutto gli sposi. Mi attacca il giro, vabbè, è un piano, là. Piano, cosa si fanno piano, che se ne fa, è tutto in un moto, spanna male, non è così, piano piano bisogna andare, fai la prima volta li picchi di tot, poi vedi l'andazzo, no? E poi la seconda volta li chiedi di più, e poi da come ti stai, ci sei, cioè, ti sai di gestire tu la... tutto la maladam. Se fai bene, ti chiama la gente. Scappa, ma voi mi fate queste cose. Sto pensando di comprarmi le cover per fare gli sposalizi. Ma così? Tu sai che cosa sono? Quando tu piazzi così, i fattivi, delle casse, sotto, cioè lì devi mettere delle cover, bianchi si chiama, cover bianche. Si mettono sotto per una luce azzurra, capito? Ehi, prima di pindirina, prima in caccia va. Recuperati qualche soldino che hai speso. Beh sì. No, ho preso un catamessa. Già lo so, già, vabbè. Io ho fatto sacrifici perché voglio... cioè, voglio anche avere... guadagnarci, voglio fare bella figura. Poi vado tutti i figuri, no? Ho capito. E poi c'è... come si chiama? Poi ti fanno conoscere Alba, quello che c'è a Badimanna. C'è mai a Badimanna? A voglia. Poi lo chiede Alba. Ma ti fa fare qualche serata. Ma perché Costantino non li ha fatte da poco? Vabbè, io li conosco bene. Cioè, li conosco a Gianni Alba. Li conosci bene? E li conosco. Vediamo poi, vediamo se si fa. Già lo paga bene a Costantino, non ti preoccupare. Gli ho fatto dalle 11 del mattino fino a sera, già ho pagato bene. Allora, mi hanno detto, adesso mi ricordo che giorno è, il sabato, mi sa il 21, no? Aspetta, fammi vedere. Forse il 23 di aprile. Ma catapita, sono te coglioni. Aspetta. Il 21 di questo mese. Ci sono i tre sabbi d'Alba. Qui si guarda la ridì. Ma lo fanno dentro sul palco? Ma dentro lo fanno d'Alba. Sì. Già è bello già, cavolo. Sì, sarà pieno, sarà. Penso proprio di sì. Già giro il lungo. Oh, forse fa il pacchettino fuori, mi. Fa una specie di pacco fuori. Lo fa fuori. Sono in chiga, ma ti mette un gatto. Ti si mangia la zinzola, ti si mangia. E da attimino, ecco qua. Dove devo fare? Un lavaggio di roba. C'è una volta, vedi, no, qui è un casino. Ha detto a mamma, è zitto, domani. Poi via. Vabbè. Piano piano, altro, dai, sennò... no, è un casino, non le vai così in pressa. Che ci ne mai. Piano piano, biscuitteggia, va. Poi mano a mano, capito. Devo arrivare a prova, a vedere un po' come fai. E piano piano, sì. No, non ho bisogno di fare un banco, no. Sopra, situati sopra, è già un banco. È fatto il coso, il cemento. Ah, ce l'ha fatto? Perché non hai visto che succede? È fatto qui così in marmo, per bare. C'è già, è già predisposto. Ma io non so che pezzo si ha preso, se si è preso quello che c'era prima o l'altro, quello che c'era Gianni Lupi. Non lo so, Non lo so, no. Sicuramente sopra il suo, dove c'è il palco. Ah, propagazione questa sera. No, io c'ho a fare che andando in Grachicina, allora. Propaganda, vabbè, non inizia un cazzo, me. Mamma mia. Sì, allora. Allora. Vabbè, domani ha messo 20, no, domani ha messo 22 gradi, poi c'è un po' di pioggia, poi martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ha messo 24 mercoledì, 25 giovedì, 26 venerdì, 26 sabato, 27 domenica, che mi va male. Davvero? Io consumo più di sì. Ma sicuramente è ancora fredda, vera. Fate un po' di sole, altro che fammi il bagno. E sono entrato una settimana per cacareggio, mamma mia. E adesso sta per cambiare. Non faccio bagno altro ancora. Faccio questo bus immacolo. Per un po' andare il chio. Per un po' quando so così quello di bambino, non mi posso fare bagno così. Non mi raggiungo 20 anni, no? Si intende il doc e doc? Sì, la facciamo benissimo. Cazzo, da ora farò un buon pane c'è a goccia. Sì, era il capo, era. Cappa. Speriamo che adesso mi devo... Sto pentennando, sto perché devo prendere l'hard disk, capito? E cosa, poi avrei voglia anche di... Cioè, perché poi magari diventa un dilemma. Ho voglia anche di scendere a Olbia, capito, da mia sorella. Vabbè, ti ho detto, l'hard disk e l'SSD comprati. Poi il case lo prendi dai cinesi, questa una cazzata, 5 euro, 6 euro, 7 euro, boh, adesso non mi ricordo. Ma hai visto il drone, avverrà? Ti costa di più, anche, voglio prenderlo su internet. E quanto costerà? Adesso vediamo, tanto più spendi e più hai, ma non spendi meno hai. Se ti puoi prendere un crucial, è buono, se ti dico quanto costa, allora. Da 500 giga lo vuoi. Fate che metto lo squelci, vai. E avvisate di tutto. Non te la bite. Dico, da a 500 giga ci sta tutto, o no? Aspetta, allora. Allora, qui, vedi, c'è una crucial. Costa, costicchia, Hard disk SSD 3D 2.5 stato solido 1000 GB 1 TB crucial MX500 costa 77 più 7 costa 84 euro. Lo sabbia. Ah? Ha giusto, lo sabbia cantera. Cazzo, con la mobulo. Poi se vuoi andare purtroppo giù che si libreci sono quelli, questo qua addirittura poi c'è questo qua SATA SSD, vediamo, aspetta, SATA SSD 3 disk rigido SSD interno solida, la vaccina, cazzo, 2 terabyte è questo, però no vabbè, la vaccina è buona, cazzo, mese arrivi. Vediamo, sto qua è da 1 terabyte, la seconda mano mi ha tu. C'è uno di seconda mano. Ah, è offerta, no. Poi 104, questo è bello, questo è il blu. VD blu. 3D NAND, queste sono 104 euro costa, da 1 terabyte. Ah, scusami un attimino. Ma è no che la ciappo. Tanto, che tu dici la cosa di più, fai compralo qua, prova, la cosa di più alto, mi vuoi costare 20-30 euro in più. Tanto ti muove un viaggio se mi inchivi per me. Tanto fai come vuoi, prendetelo qua, non so cosa dire. Guarda un po' però che marca è, in base a quello che prendi, guarda che marca è. Non lo fai sapere, mi chiami, se lo compri qua. Capo, lo prendo in un negozio di computer. Sì, ma mi dici che marca è? Tipo adesso un SSD da 1 terabyte, dalla Samsung costa. Vediamo. Allora, SSD 94,50 da 1000 giga. Capito? Spedizione gratuita. In arrivo 3 giorni. Ma male fa che tu sci ma questa marca qua? No, per lo meno, per quanto so io no. Poi c'è questo da Evo, costa 90, Samsung, QVO, 90 euro, solito è gratuita, da un terabyte sempre. E tutto dipende da te. Poi c'è una seconda mano che è in coso, quindi ci ho offerto, 2 giorni mancano. Ma come è che è la seconda mano? Poi questo qua lo stesso 90 euro, da un terabyte, sì, un terabyte. Tanto così costa, intorno ai 90 euro, dai. Ho capito, ma abbonati su, ma 500, basta, devo mettere per forza la 1000. Ah, ho detto basta la 500 a voi, ai, tanto, cosa dei buoni massimi, perché dei buoni foto. Sarebbe giovato contento e via. Cosa c'è di chi mette da fare i nomi? Lasciati con la 500 quanto costa, aspetta. Andiamo, 500 giga, la 500 giga ti costa quello Samsung, quello buono, 62-63 euro ti costa, spedizione gratuita. Guarda, hard disk stato solido, SSD Samsung, 870 EVO. 500 gigabyte SATA, questa cosa SATA c'è. Ce ne sono, ce ne sono 63, quindi questo costa di più, 68, più 10 di spese, questa è seconda mano, questa sta vendendo 55 euro, tanto è il rubilino. Infatti me lo volevo mettere da un terabyte, adesso vediamo, lo voglio cambiare. Io metto da un terabyte a questo computer, poi domani quando si rompe ce l'ho, come lo metto dove me lo devo mettere. Il prossimo computer li comprerò, faccio un sacrificio e mi compro i 7. E poi Google sai. Esatto, questa è una fotti. Ma è un computer esotto, vuoi portare la palla, qui su sì che è veloce. Qui ci vuole più a dirlo che a spegnerlo, cioè è velocissimo, perché io l'avevo già sistemato, ma veloce mi, un bel veloce. Che? Okay. Avanti, buonasera. Ehi, ciao, buonasera a tutti, quanti siamo? Buonasera anche a lei. Ciao Antonio, buonasera anche a te, siamo in due, io, tu e Antonio. Stiamo parlando di computer, hard disk e quant'altro, avanti Antonio. Buono, ciao, ciao, buonasera, buonasera. No, no, l'ho acceso al volo, ti riesci a vedere se per la volta, no, grazie di questa cosa, porca miseria, che tutti i giorni finisco tardi con una cosa o pallastra, è tempo uso per zero, ti riesci a vedere se per la volta così va. E niente, sì, va benissimo, il discorso va che sia sano, tutto andrà bene. Va vedendo che io devo compararmi l'hard disk, un po' buono, ma cosa mi serve va. Proponi di base di un karaoke compreso. Buono, ascolta, a te ne intendi tu di cosa? Sai che va giù un coso, uno di questi compatti, di questi bernanera, no? E un vero, dove metto i dischi, il coso, grazie, no, non regge, ne esce lo sportello da solo, che li ripara Sassa lì, quelli da Ennas o da chi bisogna portare, perché qua a Polotose non so come anche che dico, ho provato a chiedere, però mi hanno detto, ah buono, conviene a mandarlo vola, ho detto no, cosa vola, domande no, se deve qualcuno che la beda per un bocco sia una cosa fattibile, se no ti fanno a baci. Guarda, quando lo accendi, no? E si esce fuori il disco, no? Tu lo rimetti dentro e lui te ne lo ributta fuori. Tu lo metti dentro e te ne lo ributta fuori. Non lo so perché. Si è rotta la molla, seppure c'è qualcosa che non va, non lo so. Dimmi che marca è il computer, che computer è? Ma io ce l'ho qualche lettore. Kenwood. Computer Kenwood. No, computer no, un coso, è un compatto, capito? Parliamo di musica, Ah, stai parlando di computer, ah, te lo butta fuori, Di solito è il lettore che sta andando male, lo fa anche nel computer. Tu sai di rabbia, tu sai che tu hai di rabbia. Esatto. A chi lo posso portare? Lo sapete qualcuno? Cioè, giustamente qualcuno bravo, Baghendi, fa carità, è nulla di cioè interessante, a chi ho queste cose ti capiteggio sempre un errore, sempre con la bassa sbagliata, no? A chi vediamo che mi mandano un logo è sempre un casino. Tant'è vero che tutte le volte dico, conviene buttare via tutto così non ti arrivo, compare Ginovo e ciccia. Avevamo detto, no, ma lo sei treni, lo bigli, lo bocci, lo fai, lo spesci fuori, ma non lo devo spedire, ma assolutamente no, rimane così, non me ne frega niente, figurati. Ma potresti provare da Ennas? Infatti quello che ho detto io, ho detto magari bambino pure a portarglielo e magari qualcosa me la dirà, poi se no si può contare ciccia, non me ne frega niente. C'è anche Gambino, il cognato di Massimo Bulldozer, che invia via Torres, Sandro. In via Torres, senti, anzi, da via Napoli, a Rosandi è la cantina dei Vignocchi, che si che vende il rubino, in che vede fronte? No, no, non lo so, no. E le riparano loro? Sì, lui già si arrangia abbastanza per queste cose. Non penso che sia una cosa... No, non penso, poi, sicuramente parlo sempre da fuori io, poi ognuno